Marco, Marco, vai Marco. Quando tu mi aggredisci, sì, chi ha colpa e chi ha ragione è evidente. A quel punto non puoi essere tu il giudice che decide con quanta e quale forza io ti devo rispondere. Ma che follia dici? Quello era nel diritto romano, ma c'è stato qualche secolo dopo. Imbecille, imbecille di Luca. Lei è ritardato, è un'offesa che non offende me, ma le persone. Lei è un gran maleducato, perché in realtà con questo non offende me, si qualifica per quello che è dandomi del ritardato, capito? Imbecille, coglione, maleducato. Maleducato. Ha detto ritardo cognitivo. Maleducato cretino. Hai un ritardo cognitivo. La zanzara. Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia. Sai cosa è successo? No. Il cane del show Giuseppe l'è entrato nel cortile di casa nostra. È corso dietro al gatto, l'ha preso, ci ha dato un morso e l'ha ammazzato. Cosa c'è da mangiare stasera? Coniglio. Ma è possibile che tutte le volte che muore un gatto tu mi cucini il coniglio? Fammi due uova, va. Io voglio che tu ti metta in giro, tu, nessun altro. Nessuno dei tuoi miseri sicari. Voglio che tu ti metta in giro e voglio che tu punisca la persona che è responsabile dell'assassinio di questo povero piccolo coniglio. Ci siamo capiti? Certo. E portati a casa un po' di carne buona andando via. Non vi stupite, non vi stupite, non vi annoiate, soprattutto se riprendiamo la settimana qui alla Zanzara con il tema principe della passata settimana, caro Parenzo. So che ti sei fatto due palle così, però non è che ci sia molto altro, eh. Sì, certo, c'è la vittoria della Le Pen in Francia. Ecco, c'è il giubileo che si apre domani. A proposito del quale vorrei dire una parolina, caro Parenzo. Allora, io ricordavo quando ero piccolo, solo quando ero piccolo, che il giubileo è ogni 25 anni, no? Dipende. Beh, di solito ogni 25 anni, cioè ogni 25 anni c'è sto giubileo. Ed ogni 50 nella tradizione. Sì, ebraica, esatto. No, non lo so, se ogni 25, ogni 50. Ebraica è ogni 50, però. Vabbè, insomma, 25, 50, quello che è. Il Papa, indice, ha così un si grande dice, regalo all'Italia. Invece. Ha fatto un grande regalo all'Italia. Regalo, cioè, per puro protagonismo, indice un giubileo straordinario. Bellissimo. Ma che vuol dire? Paura, il giubileo della città, misericordia. Roma. Ma che Allegra. Vuol dire? Ma perché non c'è bisogno di un giubileo straordinario? No, ma perché? Perché? Ma già ci basta un giubileo ogni 25, 50, quello che è. Ma un grande giubileo di luce sul cupolone, straordinario. Bellissimo, bellissimo. Te lo dici un laico che per puro parole, esibizionismo, diciamo la verità. Questo Papa è un esibizionista. È un esibizionista. Per puro esibizionismo indice un giubileo straordinario. Ma perché non si può dire che è esibizionista? Beh, è un esibizionista. Ovviamente no, perché è come fosse il vicario di Cristo in terra. Ma io ripeto, sono di un'altra parrocchia, quindi non, io lo difendo. Un esibizionismo, da un giubileo per esibizionismo. Cioè, tu chiedi in giro perché cosa è stato indetto questo giubileo che si apre domani, non si capisce, la gente non sa una mazza, perché la gente è ignorante, ma non sa in generale, nulla. La gente è ignorante in generale, la ma gente non è ignorante. Problema. La gente però è anche incazzata per il decreto salva banche di Renzi in alcune zone d'Italia, caro Parenzo. Ci sono elettori, molti elettori del Partito Democratico, il PD ha una paura fottuta, la stessa Serracchiani ha perso 18.000 euro, ha una paura fottuta di perdere voti, giusta o no che sia la protesta di questi signori. Perdere voti o perdere soldi invece qualcun altro? Però. Qualcun altro invece no, cioè, ha già perso i soldi. perdere voti. Qualcun altro, sì, però ha in questo modo dei soldi. Qualcuno dice ne avrebbe potuti perdere molti di più. Beh, no, no, certamente non quelli là. Certamente non quelli là. Non quelli, certo. Non quelli, quelli che hanno già perso tutto. Vabbè, tutto. Quelli per forza, hanno già perso tutto. Ma bisogna vedere se hanno ragione o hanno torto. Perché molti dicono, però loro, il loro era un investimento a rischio. Cioè, dovevano sapere che era un investimento a rischio. Perché adesso dobbiamo rimborsare? Vabbè, il discorso è molto lungo. Ma. Comunque, voci della protesta. Anche lei è uno degli investitori. Siete rimasti fregati da Banca Etruria? Cioè lei sapeva di rischiare molto? Cosa? Mai ce l'hanno detto. Allora sono stato tranquillo e poi l'ho visto la sua tranquillità. Perché chi ci rimette il babbo della Boschi, non lo so chi era, vicepresidente? Cosa rimette lui? Mi carebbe vedere cosa ha rimesso. Dice anche Renzi che si era presentato come il rottamatore. Ma il rottamatore del che? Rottamatore del che? Si hanno fatto una rapina senza niente. Poi per entrare in banca devi mettere il dito, devi fare un sacco di cose. I primi ladri sono loro. Sono loro. I primi ladri. Sono loro i primi ladri. Don't you worry, I'm alright, Jack. We've never had it so good. Ragazzi, ho scoperto una cosa incredibile, me l'hanno segnalata nei giorni scorsi, la riprendo oggi. C'è chi vuole, Parenzo, dopo il coniglio, vuole trasformare in animale da compagnia, cioè in animale come il cane, protetto, come il gatto, insomma, sì, protetto, eccetera, che non si può più cucinare, la gallina. La gallina, La gallina no, però. La gallina, amico mio, no, la gallina. La gallina non è possibile. La gallina. La gallina a me piace troppo. Ecco, allora c'è una trasmissione che si chiama Cronache Animali. Per carità, va benissimo, E parlo. Su questa emittente? No, no, questa è una, quella è un'altra trasmissione. Cioè sulla Rai, Rai 2, credo. Una trasmissione bellissima, come tra l'altro. La nostra di animali, come Cronache, non mi ricordo, non me lo dire, dai, su, non me lo ricordo. Cerco di cancellarle queste cose. Ma è meraviglioso. Allora, una trasmissione Cronache Animali, va bene, parlano di animali ovviamente. A un certo punto ho visto spuntare una signora con una gallina in mano. Io devo, ma che fa un grande ascolto con gli animali. Ma io non ti sto dicendo niente, non sto gettando anche merda su Stati questa Uniti trasmissione. È una cosa... Ma va benissimo, io ti sto dicendo quello che succede però. C'è una signora che si è presentata con una gallina in mano. Una gallina. Sei sugli animali che doveva portare il marito. Ma io pensavo, no, ma credo, io pensavo che fosse per, ne so, per descrivere che cosa fa la gallina. No. No, attenzione. No. Cioè, questa qua dorme accanto a lei. Cioè, questa qua dorme con la gallina. Va bene, c'è chi dorme col fucile, meglio dormire con la gallina, no? No, ragazzi, dai. I tuoi amici che chiami che dormono col fucile, no, va meglio dormire con la gallina. Non è possibile dormire con la gallina. Ma dai, ma non puoi considerare questo una cosa normale. Quello ma conduttore... più normale è quello che dorme con la gallina che non no, quello che quello dorme no, con la quello gallina. No, quello questo non credo. Assolutamente questo non credo. Sì. No, è gente più innocua. È gente più tranquilla, so, meno pericolosa. Ma no, ma dai, non stai scherzi? Facendo un paragone assurdo, dai. No, su. Ma quei criminali che ogni tanto chiami, che dicono, per carità, dicono di avere bombe a mano, quelli che ogni tanto ma si non esaltano. È la stessa cosa, dai, su. No, quelli che chiami dicono, io vicino al comodino c'ho una 640 Beretta calibro 92. Questa qua dorme con la gallina accanto. Bene. Vuole trasformare la gallina in un altro cane, in un altro gatto, in un altro coniglio, eccetera, eccetera. Allora, a questo punto, ragazzi, lasciateci morire in pace, che vi devo dire? Se siete convinti che noi moriamo con la carne, lasciateci morire in pace. Lasciateci morire in pace. La gallina no. Io che li conosco bene sono animali da compagnia al pari di cani e gatti e ritengo sia giusto garantire anche a loro un futuro di serenità, cioè la possibilità di essere adottate, di vivere ed essere amate, soprattutto non uccise. La gallina adottata dorme a fianco a me. Dove dorme? Dorme di fianco a me. Veramente? Sì, in una cestina. E al mattino mi sveglio, la porto un po' fuori. Non ce la posso fare, dai, su. Cioè, ma veramente? Dice il conduttore. Ma veramente? Ma come veramente? Vagamente ma poi chiama l'ambulanza lui, ma chiama un vigile del fuoco. Chiama i medici. Ma chiama i medici almeno. La mattina mi sveglio, la porto a passeggio. La gallina. Ragazzi, ma siamo alla follia totale. Ma ragazzi, io non ce la faccio, me ne voglio andare. Appena ho sentito la gallina, me ne volevo andare. Matteo Salvini, buonasera. Buonasera, ma la gallina. No, la gallina come animale da compagnia non ce la faccio. Due dei grandi teorici del pensiero del Novecento che mi stanno a cuore, che sono Cocchi e Renato, La gallina non è un animale intelligente, lo si capisce da come guarda la gente. Attenzione, attenzione, così dicevano, la gallina non è intelligente. La gallina non è un animale intelligente, non ce l'hai, dai. Beh, sì, adesso lo metto subito. Lo si capisce da come guarda la gente. Allora, questa è stupenda, adesso la troviamo. Però tu mi devi dire una cosa. Allora, a questo punto, intellettuale di riferimento Cocchi Arenato, molto più di Gad Lerner, che dice che la Francia si sta fascistizzando. A fronte di Cocchi Arenato, Gad Lerner non lo vedo neanche passare, onestamente. Cioè, molto più, hanno avuto molta più importanza, beh, quello sicuro, per la società Cocchi Arenato del signor Lerner. Hanno influito in maniera molto più positiva sulla nostra società Cocchi Arenato che non il signor Gad Lerner, con tutto rispetto. Per carità, sempre con tutto rispetto per le massime autorità civili, politiche e militari. Qualcuno dice che la Francia va verso il fascismo. A me questo mi fa impazzire. Ma solo un tarato può dire una roba del genere. Adesso il Front Nazionale è il partito più votato dai giovani, dagli operai, dai commercianti, dagli agricoltori. Cosa abbiamo? Uno stuolo di giovani agricoltori fascisti. Beh, ma non è che però questo di per sé. Semplicemente chiedono un po' di sicurezza in più, un po' di controllo in più, un po' di rigore, un po' di ordine, un po' più di lavoro. Parenzo, ma tu hai paura? No. Tu non hai paura, non sei uno di quelli che ha paura, il timore, il terrore della Le Pen. Ho anche detto che secondo me non deve farsi questa buffonata dei socialisti che vogliono ritirare i loro candidati per far convergere i voti al secondo turno sui repubblicani di Sarko, che sarebbe una stupidaggine oggi, assolutamente. Reputo che sia una persona pericolosa. Le idee che porta, ma non perché c'è il fascismo, pericolosa per il modello di società che ha in testa. Ma qual è un'idea pericolosa? Poi deve vincere, però io ti sono tra quelli che il fronte repubblicano non va fatto come fece Mitterrand una volta, anni fa. Ma no, ma è tutto sballato. Quello che ho letto è tutta una follia, ritirare la cittadinanza e questa idea della laicità assoluta che ha portato dei danni clamorosi per altri. Poi è curioso, lei che è laicissima, c'ha la Marion lì, la bella biondina. Che ti piace bella, Marion? Beh, una bella ragazza. No, dico Salvini. Che è super cattolica. Vabbè, quella è altra divorziata due volte. Essere una deputata all'Assemblea Nazionale, l'unica del Front Nazionale a 23 anni, avere le idee assolutamente chiare, magari è un non partito va bene di famiglia. Ma è un partito di famiglia, cioè il marito. Ma no, ma a parte che è un partito familiare fondato, il povero vecchio l'hanno messo lì in cantina, hanno chiuso il fascista in cantina. Insomma. Ma no, ma che c'è? Come? Cosa c'entra Marion con la Boschi? Non c'entra niente. Molto meglio Marion. No, ma che c'entra la Boschi? Scusa, non c'entra nulla. Non ho capito qual è il pericolo. No, ma che c'entra la Boschi? Non ho capito. Spiegami. Non c'è pericolo, è il modello di società che ha in testa. I gruppetti dello stesso ambiente, della stessa città. Parenzo è terrorizzato dalle idee, però questo è un altro discorso. Terrorizzato, no, è un'idea diversa, totalmente diversa dalla mia, ovviamente. Traffico, un attimo, che c'è il traffico. Il traffico è il problema. Stazioni di servizio Costantin. Se ti fermi, ti conviene. Vi presenta La Zanzara. La gallina non è un animale intelligente, lo si capisce da come. Subito Salvini, trovato subito. Uno. Poi facevano il numero con la gambetta, allargavano la gambetta a destra. Altri anni, adesso abbiamo Fede. Pensa te che è cresciuto con Cocchi e Renato come cresceva meglio. Me lo ricordo, dovrebbero insegnarlo nelle scuole, probabilmente. Vabbè, senti, ma è inutile parlare della Le Pen. Salvini è contento. Che dobbiamo fare? Quando sappiamo. Salvini è contento, mi davano del matto, del fascista, del razzista. Siamo andati non solo con la Le Pen, ma con gli austriaci che hanno preso il 30% dei voti a Vienna, con gli olandesi del Partito della Libertà che sono il primo partito in Olanda. Qualcuno si rende conto che servono un po' più di regole, un po' più di ordine? Per cui se qualcuno dice che la Francia va verso il fascismo è un cretino. Ma sono dei malati. Cioè, va verso una forma di autoritarismo sicuramente. Ma anche autoritarismo? Cambiano le... Ma ci sono le elezioni. L'autoritarismo è una cosa che le democrazie... Che l'immigrazione sia controllata. Cos'è autoritarismo? chiedere un po' di espulsioni. Ma quelle sono politiche diverse, Parenzo, sono politiche diverse, punto, basta, uno può provare o no. Ma l'autoritarismo che c'entra? L'autoritarismo che c'entra? Allora Renzi che è? Allora Renzi che comanda tutto lui? È normale? Per me non è. Ma sono due concetti diversi, ma non importa, non è questo il punto. Lui è contento che ha vinto la Le Pen, ma per forza è evidente, a lui piace la Le Pen, gli piace Putin, che ha un modello di società diverso da quello che ho in mente io, ma lo rispetto, va benissimo, certo. Putin, diciamo, ogni tanto, che è il suo punto di riferimento, mi pare, negli ultimi anni, non è certo un campione di libertà e di democrazia, però va bene, amico di Salvini, Putin, ottimo, degli statisti più lucidi che ci sono al mondo adesso, sì, poi io non ho modelli, però sicuramente l'approccio ad esempio contro l'ISIS ha visto Putin molto più operativo, molto più concreto, molto più sveglio. Ma per cui a te dei problemi interni. Ma lei sentite in queste ore la Marion? Lei sentite? No, Marine, non disturbo, perché immagino che siano disturbi, abbastanza tempestate, anche perché poi si metteranno insieme tutti contro di loro, un po' come potrebbe succedere in Italia se. Ma il vecchio, dov'è finito il vecchio? Lega. Il vecchio fascio, dov'è finito? Il vecchio. L'hanno emarginato. L'hanno chiuso nelle segrete del fronte. Ma l'hanno emarginato perché continua a parlare del fascismo. Ma perché era il Puzzone, appunto, perché loro sono state furbe. Marine Le Pen, furba è stata. Come ma è stato furbo nei Salvini? Ma parli di uno di sinistra in Italia. C'è il governo Renzi che prende i voti da sinistra, ma non fa niente di sinistra. C'è la Lega che avanza. Quindi ma hanno fatto un po' come avete fatto voi con Bossi, certo. Un po' l'avete. Stavo dicendo questo. Ma loro l'hanno anche buttato fuori, mi sembra, l'hanno cacciato dal partito. Voi no, partito, perché lui sa un po' di cose, se no vedete si scatena. No, per me la riconoscenza, al di là dei calcoli politici, è un valore che viene. Cioè tu non l'avresti buttato cose. Fuori il vecchio, dici? Il vecchio non l'avresti buttato fuori? No, io chi ha il creato vecchio, qualcosa vecchio con Jean Marie. Gli errori che può aver fatto, però non commento le scelte altrui, evidentemente, se hanno fatto così, hanno fatto bene a far così. Io non sono... Non accoltello. Senti, ma le moschee, siccome ci sono, ogni tanto escono fuori delle notizie su convertiti, gente che viene arrestata che frequentava alcune moschee per terrorismo, sì, eccetera, eccetera. Sì. Tu le moschee che ci sono in Italia oggi già aperte, le chiuderesti subito? Ma sì o no? Sei. Sì o no? Io le controllerei tutte. Vabbè, quello sono già controllate. No, non ne farei più aprire neanche una. In Tunisia ne hanno chiuse 80. Quelle che sono aperte le vado a radiografare. Vabbè, ma quello speriamo paga, che già ci sia qualcuno paga, che lo fa. Chi prega, chi non prega, ma soprattutto non ne farei aprire neanche una di nuova. E vanno legalizzate? No, però questa è la contraddizione, vanno legalizzate, quindi. No, siccome ce ne sono solo sei legali. Cosa devo legalizzare? Le moschee abusive? Lui dice nessuna nuova. Sono centinaia i luoghi di culto dei musulmani in giro per tutta Italia. Quelli vanno chiusi? Se non vanno chiusi quelli che sono abusivi, sì, sigillati dal primo all'ultimo. Ma come, se dove vanno a pregare? Per strada, viale Jenner, come quando governavate ma voi non la so città? Se, a casa, se Parenzo ha capito. Ma dove, a casa? Il problema non si è si può pregare a casa. Infatti non c'è la libertà di culto. L'Islam è un problema che va al siete di là curiosi, della religione. Siete. Perché non c'è nessun problema con gli ebrei, con i valdesi, con i buddisti, ma a me lo con dici. I protestanti. E come con li controlli se li fai pregare a casa loro? Ma è la stessa cosa che avviene adesso. Vedi, queste sono le contraddizioni loro del fronte di Salvini. Questa è la contraddizione. È l'ipocrisia, vigliacca. Oggi vanno aperte più moschee, allora vanno legalizzate tutte le moschee. Diamo le moschee, sì, diamo gli spazi. Diamo certo, diamo vanno gli spazi aperte dove oggi. Dove predicare odio, dove predicare ma il fatto che la donna vale meno dell'uomo. Non ne faccio aprire neanche per controllare vanno aperte, esattamente il contrario. No. Fino a che i paesi islamici non sottoscrivono la Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, io non ti faccio aprire neanche mezzo metro quadro. Ma quelli islamico, che pregano qua, preferisci che preghino nelle case che non sai neanche quali Dio, sono, in luoghi di culto adeguati. Se uno crede in Dio, ci crede anche in casa, ci crede in ferrovia, ci ma crede perché tu devi vuole. Pregare in una non chiesa no, e loro non possono non pregare no, in un luogo, in un luogo adatto? Perché fortunatamente... Per cui preghino in casa, preghino in casa. Preghino sì. In casa, sì. Vedi? Nelle chiese, nelle sinagoghe o nei templi valdesi non si preparano attentati, fortunatamente. Nelle moschee sì, e quindi io non ne apro neanche mezza. Okay? E dunque uno non è lì che avvengono gli preghino gli... in casa. Gli islamici, se vogliono, a parte i posti che già ognuno ci sono. Ognuno è libero di pregare il Dio che vuole, preferibilmente rispettando anche gli altri, e quindi senza rompere le balle ma sul presepe, su Gesù Bambino, sui cantini Natale. Ma visto che l'Islam non è solo una religione, ma è una religione che diventa legge, sì. Io non do spazio a chi predica odio. Punto. Il risultato di questa roba qua sarà che ci saranno centinaia di migliaia di islamici. Ma tu andresti mai in Arabia Saudita? Ma io sono stato in tanti paesi islamici. No, l'Arabia Saudita, io sono stato in Turchia. Ma in Arabia Saudita ci andresti? No, non mi attira come paese, anche perché è uno dei massimi finanziatori del terrorismo islamico. Però è anche uno di quelli con cui facciamo affari con l'Italia. Fa affari con l'Italia da appunto, ci lascio Renzi. Cioè tu, se comandassi in Italia, chiuderesti i rapporti con l'Arabia Saudita. Quindi, scusa, Renzi sarebbe amico dei terroristi, scusa. Con Turchia e Arabia Saudita le chiederei domani mattina, se fosse possibile. Cioè tu chiuderesti tutti i rapporti commerciali con l'Arabia Saudita. Voglio vedere. Le sanzioni contro la Russia e chiederei sanzioni economiche contro la Turchia, il Qatar e l'Arabia Saudita. Voglio vedere proprio. Cioè, questo vuol dire chiudere le relazioni con l'Arabia Saudita, praticamente. Appunto. Commerciali. Ma ragazzi, no, sanzioni economiche, qua si parla di diritti umani, qua ci sono regimi che finanziano il terrorismo islamico. Poi, piccolissima parentesi, siccome qua si pontifica sempre sui diritti umani, diritti civili. In Arabia Saudita c'è la pena di morte per gli omosessuali. No, ma questo per dirti. La pena di morte per gli omosessuali. Per questo per dirti, chiuderesti tutti i rapporti commerciali con l'Arabia, con l'Arabia Saudita? Sanzioni economiche. Vabbè, che è uguale. Arabia Saudita, sì, assolutamente. A dopo, giornale radio, ciao! Siete criminali! Stufe, caldaie, termorossi. Una promessa di calore per un amore di casa. Vi presenta La Zanzara. La zanzara di base è una sorta di baccanale, una sorta di festa in cui tutto quello che fa parte di noi, la follia, la pazzia, la volgarità, l'intellettualismo, la storia, la cultura, la merda, lo sperma, tutto quanto convergono in una sorta di follia. Se sei d'accordo o meno, non te ne frega un cazzo, è bello perché è caos, è energia pura. Grazie ragazzi. Volete smetterla di dire parolacce? Mio marito diventa peggio di voi. Siamo in Cile e qua li dice a tutti i clienti, siamo al top, siamo al top. Ormai pure io lo dico. Lucia, mi è venuto in mente Mauro da Mantova, non hai ascoltato? Mauro Giordano, uguale, è lui, sono sicuro. Stessa voce, stesso nome, quando strilla. Che cazzo, uguale. Non ci avete mai pensato? Ho appena bevuto 4 bicchieri di prosecco di Valdobbiadene, dovete cominciare subito perché ve lo giuro che investo qualcuno. Cruciani, scusa, ma noi di come si pronuncia Abdallah Kabakeji? Ma cosa cazzo ce ne frega? ...24 ore su 24 di zanzara, voglio un overdose di zanzara, voglio drogarmi di zanzara. Allora, stronzate sentite qua e là, caro Parenzo, sentite qua e là. Per esempio la Meloni dice faremo una petizione perché i docenti che tolgono il presepe lavorino il 25 dicembre. Ma è una stronzata, dai ragazzi, su. È una stronzata, tra l'altro è una festa... I lepenisti te no altri, dai, avanti. La petizione è una stronzata, dai. I lepenisti qua. Guarda, le stronzate le dicono tutti, eh. Cioè, da sinistra a destra al centro è pieno di politici. Per carità, però. Tra l'altro il Parlamento è chiuso incredibilmente fino al 14 di dicembre. Cioè, ha chiuso il 4 dicembre e riapre il 14. Cioè, proprio chissà perché le cose, come dire, queste ferie lunghe. Ma non c'erano diverse urgenze? Non c'era la legge, come dire, di bilancio, non c'erano da approvare i giudici della Corte Costituzionale, da nominare, eccetera, eccetera. Comunque chiude fino al 14 dicembre il grande ponte dei parlamentari. Ma dai, su. Avvieremo come Fratelli d'Italia una petizione popolare per chiedere che i docenti che rimuovono i simboli del Natale nei giorni delle feste natalizie vadano a lavorare e tengano aperte le scuole, così mantengono la loro coerenza. Io gli gli applausi per questa cosa non l'ho capiti, eh. Cioè, gli applausi sono incomprensibili. A parte che sono 3-4 in tutta Italia quelli che vogliono, ma nemmeno questi che poi vogliono togliere il presepe dalla scuola. Cioè, in realtà non ce n'è nemmeno uno. C'è qualcuno che dice qualche stronzata sui canti di Natale. Ma poi bisogna dov'è rispettare la scuola pubblica dove si fa il presepe? Io, francamente, cioè, ma no, ma anch'io non le conosco. Anch'io organizzare non le conosco. Un concerto di Natale dove se uno vuole o la messa. Io mi ricordo che a scuola mia all'elementare c'era sta messa di Natale. No, la messa no, la messa non la voglio più, la messa, no, le messe di Natale io non a scuola andavo. No. Io e altri bambini, ma bambini di là che invece sì, erano là, non ci si andava, fine, dov'è il problema? C'è la messa di Natale. Comunque, lo sai che mi sono convinto che hai torto quando dici che è peggio portare, avere un fucile accanto che una gallina. Ma non c'è dubbio. Ma no, c'è dubbio. No, mi sono convinto che invece hai torto. Perché in realtà chi dorme con una gallina, come la signora che abbiamo ascoltato prima, sì, un animalista gallina, che vuole considerare le galline come i conigli, anzi come i cani e come i gatti, perché i conigli ancora per fortuna si possono mangiare, e anche le galline. E, insomma, questa è molto più pericolosa. È molto molto più pericolosa. Non mi pare proprio, anzi è molto meno violenta e... No, è molto più pericolosa perché chissà, cioè, una che dorme con una gallina di fianco, sai, ma siamo alla criminalità pura, amico mio, eh. Cioè, no, siamo alla psicopatia, cioè è capace di qualsiasi cosa. Cioè, è capace di una che dorme con una gallina dentro il letto. C'è, è capace di tutto. Può fare qualsiasi cosa. Uno che dorme con fucile, semplicemente. Ah, invece uno dorme con fucile, no, è un irenico. Ha paura dei ladri. Ha paura di se stesso. Come hai detto, scusa? È un irenico. Irenico? Ma qui dove cazzo ti sembra di credi essere? Adesso bisogna iniziare a parlare. Vai a cagare, che la gente cerchi le parole che non capisce. Ettore, così provincia genera di Como. Irenico, vuol dire un pacifista. Si genera cultura. Ettore, provincia di Como. Ma smetti, ma che sei tu che devi dare cultura agli altri? Ma sei impazzito. No, io uso parole. Ettore, provincia di Como. Cerca di usare parole come. Uno cerca. Quelle che usano tutti. Ho imparato una parola nuova. Dovrebbero essermi grati. Ettore, provincia di Como. Ma non fare il professorino di no, lasciamo perdere. Io quando imparo parole nuove ringrazio chi me le insegna. Ettore, provincia di Como. Dovrebbe questa non è mica così la scuola, questa qua. Abbattere l'idiozia. Ettore, provincia di Como. Questo dai, è l'obiettivo. Abbattere l'idiozia. Non è che parlare Parenzo, c'è sotto Parenzo che parla. Mamma prego, mia. Prego. Vai. Allora, io ho telefonato perché nel momento in cui voi avete iniziato la trasmissione questa sera. Sì. Avete parlato del giubileo straordinario. Ma chi è che chiama? Mi chiama assoluta. Chi è che ovvero mi chiama? Chi mi chiama in diretta? Aspetta. Chi pronto? È? Chi è? Pronto? Chi è? Giuseppe, non mi chiami più, Giuseppe. Penso che... Non ti chiamo più. Che vuol dire non ti chiamo più? Non ho capito. Non mi chiami più. Ma che vuol dire non ti chiamo più? Chi sei? Sono Savino da Andria. Sabino D'Andria, perché penso dovrei chiamarti? Chiama. Spiegami. Non mi chiami più. Io volevo dire il fatto delle banche stamattina. Adesso ne parliamo delle banche. Al telegiornale. Che salvando le banche sti cornuti, Renzi e tutto il governo. Perché salvano cornuti? Salvano le banche e il coso lì, come si chiama? Chi? I cittadini che sono stati truffati dalle banche, li fanno morire. Sì, però amico mio, ma... E poi vuole una tracciabilità. Che tracciabilità voglio? Vabbè, dai, ci sentiamo dopo. Ma non mi chiamare durante la... Perché mi chiami durante la trasmissione? Non capisco. Va bene, ciao, ti abbraccio. Adesso che fai, rompi i coglioni perché sono amico di Savino da Bari? Ognuno ha gli amici che si merda, benissimo, figuriamoci, anzi. Vabbè, con chi eravamo? Ettore, dai. Giuseppe, scusami. Allora, in questa sera, quando avete iniziato la trasmissione, avete parlato del giubileo straordinario. Però io mi aspetto che da due professionisti di livello come voi, sì, prima di introdurre un argomento, vi informiate sul fatto che il giubileo è ogni 25 anni e non... No, quello che ho detto io, quello ebraico ogni 50, dai, quello voleva dire Parenzo, vabbè. Allora, che lo specifichi. Vabbè, l'ha specificato, andiamo avanti, dai. L'opinion leader di sta minchia, dai, forza. Amico mio, dimmi che cosa c'è, cosa vuoi, Ettore, cosa vuoi? Cosa voglio? Voglio che la Zanzara rimanga tale quale, che parli dei problemi delle galline che dormono a fianco al letto, che dica alla gente che è fuori di testa se fa quei ragionamenti lì, dica che le minoranze che continuano a sopportare queste idiozie della gallina che dorme nel letto devono smetterla di essere... Vabbè, allora che c'entra questo col giubileo? Non ho capito. No, voglio dire semplicemente una cosa, Cruciani, voglio dire questo. Da due professori come voi le notizie devono essere date correttamente per intero. Senti amico mio, il punto è solo uno, quella è una mia opinione anche se vogliamo pesante sul giubileo. Io penso che non c'era bisogno di questo giubileo, di cui non mi frega assolutamente nulla, di cui la gente non capisce l'importanza, ho detto semplicemente che già ci basta un giubileo ogni 25 anni, proclamare uno così dopo 15 anni è un atto di presunzione, secondo me anche di visibilità, così, ma ti facciamo un giubileo, dai, il giubileo della misericordia. Allora, attenzione, se tu vuoi mercificare il giubileo, dire che il giubileo è un'occasione di business, io sono... Ma i prezzi degli alberghi a Roma sono aumentati a dismisura, è normale questo. Ma Borro ha assunto la misura. Il giubileo è il giubileo della misericordia. In questo periodo qua, di notte... Proprio dalla misericordia, misericordia, con quello che sentiamo, sui preti, su come si comportano, ma non toglie il valore, sullo schifo del Vaticano, per chi ci crede. Il giubileo della misericordia, ragazzi, io dico solo una cosa: non si sentiva il bisogno di un altro giubileo, c'era già stato uno nel 2000. Aspettiamo il 2025 con grande serenità. Cioè, il punto è che c'è un... Non fa male a nessuno, anzi, da un punto di vista religioso, chi lo vuole frequentare, da un punto di vista lo fa lo stesso, crede lo stesso la gente, lo fa e ci crede. Marcello da Rimini, vai Marcello, vai. Dall'altro punto di vista, ciao, ben Marcello, dimmi. Ciao, girano più soldi. Ma, sì. Guarda, io invece ti volevo parlare di questi animalisti, perché secondo me sono un po' troppo fanatici. Secondo me il fanatismo sia nella religione... Questo lo sappiamo però, amico mio, è una settimana che parliamo del fanatismo del nazi-veganesimo, tu non è che aggiunge qualcosa, No, io ti volevo dire dalla mia esperienza con un animalista che faceva tutta la radicale in questo senso dell'animalista di qua e di là, il cane, dormiva con il cane, non so se mi capisco. Vabbè, dorme col cane, un sacco di gente dorme. Allora, con quella che dorme con la gallina, le consiglio alla signora di trovarsi un cazzo, che mi sembra la soluzione migliore. Di trovarsi un cazzo, che è la soluzione migliore. Cioè, dice la soluzione migliore della gallina. Magari la signora fa del sesso lo stesso e magari dorme anche con la gallina, che ne so. Mamma mia, una brutta immagine questa, Giuseppe. Comunque io quello che ti volevo dire... Aspetta un secondo che abbiamo un'interruzione, fermo là. Voglio più zanzara e meno pubblicità. State ascoltando un programma offerto da... San Martino di Castrozza, Passorolle, spettacolo e avventura tra le Dolomiti. La Zanzara. Allora, quella che dorme con la gallina, le consiglio alla signora di trovarsi un cazzo, che è la soluzione migliore, questo ti devo dire. Quello che avete sentito prima era Marcello da Rimini. Adesso Marcello, va bene le battute tutto quanto, però non è che è una battuta. Vabbè, dai, su. Però, Giuseppe, però probabilmente è legato anche a quello, su. Cioè, tu dici una che dorme ma con la gallina. Non sapere interagire con le persone. Aspetta, però, perché ti metti in viva voce, amico mio? Dai, su. Ah, no, scusa. Dai, su. Allora? No, ti sentivo meglio, vai pure. Ho capito, ti sentivi meglio. Io non sentivo una mazza. Ma non ti sei lamentato nel primo intervento. Mi sono lamentato, ma non eri in viva voce. Ero uguale, ero lo stesso sistema. Vabbè, comunque, guarda. Marcello, dimmi, capito? Non puoi fare battute contro questa poveraccia che in fin dei conti dorme con una gallina, so problemi. È un consiglio, Giuseppe. Quello che ti che dorma con un uomo, effettivamente, però uno che dorme con una gallina, Parenzo. Giuseppe. Non lo vedo in contraddizione, insomma. Perché bene o male. Sono stato all'estero per molto tempo. Ma che c'entra l'estero? Scusa, non ho capito. Ti racconterò. E mi è capitato di vedere che è legato al non saper interagire con gli altri, a una carenza. Se tu dormi con una gallina, se uno dorme. No, ma se uno dorme con una gallina, non c'è dubbio che qualcosa non quadra. Qualcosa non quadra nel cervello. Amico. Dorme, magari la tiene lì in casa. No, dorme in con la gallina, la porta a passeggio. Ma non è che lo mette nel letto, la gallina non sta dentro. Ma come no? Ma non è possibile. Ma come non è possibile? È possibile. Sarà è possibile. Sotto il letto, come allora, si questa dice? Questa signora si chiama Simona Basilico. Simona Basilico. Comunque, ora, qualunque cosa faccia con la gallina, sempre meglio di quei quattro squinternati chiamano, sostenendo di avere un arsenale in casa. Una gallina non ha mai ammazzato nessuno. Un arsenale sì, quindi ma non meglio dire la stupidaggini, gallina. Mamma mia, sei sempre il solito. Marcello, che dici? Non è la logica, secondo me è più normale chi tiene un fucile accanto al comodino. Simona Basilico, si fa una canna, signora. Sì, vabbè, dirti? Bene, comunque bello. Io credo che l'estremismo nell'animalismo sia sbagliato. Io questa animalista con cui sono uscito, perché poverina, gli era morto il cane, era disperato, ho fatto un atto di beneficenza. In che senso? Ma bello che te la sei, mio, fatta, la sei fatta per beneficenza, non ho capito. Ma no, nel senso che non, usciva dalle mie categorie, una quarantenne. Io per fortuna ancora cerco di stare su uno standard un po' inferiore. Cioè vai con le ragazzine, ti piacciono più le ragazzine? Ma no, le ragazzine, però quelle che Di Biagio, che le può convocare Di Biagio. Generalmente io mi muovo. Ma Di Biagio siamo all'under 21, però, amico. Bravo, mio. Bravi, under 20, under 23. Ma sei veramente un maiale, tu, Marcello. Ma cazzo dici? Ma sei veramente un quanti anni hai? Scusa, quanti anni hai? Quanti anni hai? Ma su Facebook ne ho 38. Ma che 38? Su Facebook, nella realtà, sulla nella carta d'identità. La realtà di oggi, ragazzi, è la realtà virtuale. Io se su Facebook ne ho 38, ne ho 38. Ma questo Parenzo è veramente un maiale. Ne hai almeno 10 in più. Allora, questo mondo è veramente... No, assolutamente, caro Davide, assolutamente. Vabbè, Marcello, tu... Questione ti, di 2-3 anni, poi una cosa... Ti piace, come si dice in gergo, ma la carne fresca. Ma uno che si riduce l'età su Facebook, vogliamo parlarne di chi... C'è cioè, più io altro non che mi gallina. Sono assolutamente ridotto. È peggio di quello... Tu dici peggio lui di quelle che dormono con le galline, ma senza dubbio, allora partiamo quelli da un che si riducono sbagliato. L'età così. Marcello, Parenzo sta dicendo che se ti riduci sei l'età su Facebook sei peggio di quelli che, vabbè, che dormono con le galline. Parenzo è esagerato, io guarda sono uno dei pochi che non ti ha offeso. No, ma io infatti non offendo. Ma io infatti non ti offendo, dico semplicemente. Guarda, io la mia età la porto bene. Va benissimo. Sta tranquillo che non sono né un porco né un maiale che vado da. No, ma non ho mica sostenuto questo. Che se uno si riduce l'età, cosa così devo fare? Cioè, non posso farci niente. Comunque. Sono uscito con questa qui, animalista e tutto. Allora? E poverina, e facciamole un piacere. E di qua e di là. Oh, io cosa ti devo dire? Questa qui puzzava ancora del cane, il cane era morto, quindi c'è qualcosa che non va bene in questa simbiosi. Io insisto su questa cosa. Vabbè, Marcello, ciao. Perché ho parlato di nazi vegan, di nazi veganismo? Perché in realtà queste frasi che adesso vi leggo possono essere attribuite a chiunque del mondo vegano, più o meno. Poi io conosco dei vegani che mi hanno scritto che non sono assolutamente estremisti e che odiano quelli che chiamano assassini coloro che mangiano la carne, eccetera, eccetera. Però il nazi veganismo si alimenta di queste cose qui. Nazi veganesimo. Sì, nazi veganesimo, quello che è. Senti questa roba. Non hanno capito che essere vegan per etica, vuol dire essere contrario. A parte uno dice essere vegan per etica, già ti dovrebbe portare via qualcuno. Io sono vegano per etica, via. Ambulanza, infermieri e tutto. Comunque. Non hanno capito che essere vegan per etica vuol dire essere contrario a ogni forma di sfruttamento, ingiustizia o abuso. Per cui chi non è vegan automaticamente è a favore di sfruttamento, ingiustizia o abuso. Almeno di una parte, no? Dello sfruttamento, dell'ingiustizia e dell'abuso che c'è nel mondo. O non hanno capito niente, o non vogliono capire. Ci sono anche persone giudiziose ed etiche che semplicemente non sapevano e da quando hanno scoperto quanta sofferenza sono costretti a subire gli animali a causa delle nostre cattive abitudini, hanno iniziato a fare delle scelte verso il meglio. Ecco, io questo è quello che non sopporto, capito? Quello che non sopporto è questo. Tu dei missionari. Ma che missionari? È una setta pericolosissima, dai, su. Sono i nazi vegani. Leonardo da Milano, vai. Allora... Io sono Leonardo da Milano, ciao Cuceno. Sì, so, dimmi. Volevo dire che io sono disabilmente abile, nel senso che ho avuto un'amputazione alla gamba, insomma adesso sono un fisioterapista, ex attore di Canale 5. Volevo intervenire, comunque non volevo protrarmi parlando della mia persona, volevo subito arrivare al dunque. So che tu sei sempre... No, ma dimmi perché mi hai detto quella cosa della tua, del tuo handicap? Perché io ho subito un grosso disservizio sanitario, ho fatto diverse querele, fra cui ho partecipato anche al commissariamento del tributo, tramite le mie querele. Vabbè, Leonardo, però adesso la cosa si fa a lungo, dai. Mi hai fatto una domanda, io non volevo, perché so che poi tu dici il tempo è tiranno, il tempo stringe, giusto, volevo chiuderla. Ecco, allora io volevo dire solo, volevo intervenire sul monotematico degli animalisti e chiuderla una volta per tutte. Il problema è a monte, a valle. A monte gli animalisti sono nazi, questi animalisti, questi nazi vegan, io li chiamo anche il califfato dei vegan, posso chiamare anche l'ISIS dei vegan, nel senso che sono delle lobby, sono dei settaristi, delle lobby, delle congregazioni che dietro hanno sicuramente una struttura industriale, una struttura aziendale che vuole entrare e sconfiggere il mercato della carne. Ora, per fare questo, cosa fanno? Insultano te quando tu mangi un semplice coniglio, che cosa è una cosa abituale mangiare un coniglio, voglio dire. Cioè, non ho capito, secondo te dietro questa gente qua c'è una lobby, non ho capito. Secondo me sì, che vuole entrare dentro per debellare il mercato della carne. Poi io, dato che mi occupo di servizi segreti da anni, su queste cose. In che senso ti occupi di servizi segreti da anni? Mi occupo come studio dei servizi, ho avuto dei pazienti. Cioè, non ho capito, secondo te ci sono gruppi di vegani infiltrati, cioè da lobby internazionali per sconfiggere? Sono mossi da lobby internazionali, che queste lobby hanno dietro strutture aziendali e vogliono entrare dentro prepotentemente per sovvertire o avvertire l'ordine normale degli onnivori. Gli onnivori, è chiaro che sono una categoria nostra. Adesso non diamo troppa importanza, però. Mi sembra il Mauro da Mantova dei vegani, questo qui, Come? No, i complotti. Sai chi c'è? Sai quell'altro, quello che ogni tanto chiama lì, Mauro da Mantova, quello che vede complotti dappertutto. Sai chi c'è? Sai perché ha vinto Marianne Le Pen? Sai chi l'ha votata la Le Pen? L'hanno votata gli ebrei! Scusi, però. Ma sei bravo, però. Sai chi l'ha votata? Sai chi c'è? De Benedetti dietro la Le Pen! Come la De Benedetti dietro la Le Pen? Fai un'ottima performance! La Le Pen! Ma vai a vedere! Vai alle carte! La Le Pen è stata votata da De Benedetti, che è in Svizzera! Scusi, caro. Ma è uguale. Ma no, ma è così. Questa digressione cos'è? Scusa. No, per dire che la sua suggestiva teoria è anche rispettabile sulle lobby che sarebbero dietro i vegani, la CIA. Perché scusa, francamente. Se mi fai finire, te la motivo, però questa. Vabbè, dimmi, dai, dimmi. Te la motivo a livello finanziario, te la motivo. E te la dico subito e te la motivo. Perché? Se questo l'ha giustificato anche questa mia tesi, l'ha supportata anche in qualche modo Cruciani, dicendo: quando io compro dei prodotti vegani attestato di qualità e costano 5 euro e costano 5 euro un chilo di arance, è chiaro che c'è semplicemente perché ovviamente è una questione di produzione. Senti, io non credo che esista dietro il veganesimo una lobby internazionale, però come tutte le cose si possono analizzare e studiare. Ascolta, scusami, io non voglio farti una critica distruttiva, vorrei farti edificante. Non escludere mai a priori che non ci siano dietro delle trame. Per carità, però. Perché io te lo dico proprio spassionatamente, perché in ogni cosa sembra che sia paradossale, ma in realtà c'è dietro un'altra verità. Ho capito, Leonardo. Ciao. Lo sai che c'è? Non ce la faccio più. Aspettati una tremenda vendetta. Ma bravo anche questo qui. No, ma questo secondo me ha preso una parte della tua... No, era lui, bravo. Aspettati una tremenda vendetta da parte di Mauro da Mantova. No. Tremenda vendetta. Creatore di mostri. Per un attimo non parliamo più di conigli, di Islam, eccetera, eccetera. Dedichiamoci. Ma che è Confindustria? Lo sai di chi è la D24? È di Squinzi! Vabbè, lo sappiamo. Sì, questo è. E lo sai chi è Squinzi? L'hanno visto l'altro giorno in una moschea! Lo sai chi c'è dietro? Gli arabi! Come l'ha visto? La moschea a Roma, Arabia Saudita! Squinzi! Al Squinzi! ragazzi, è un arabo, come dei benedetti. Ma diceva, guardi che mi risulta, però, per carità. Cioè, ma tu, ecco, questo ti rendi conto? È tutto così, non c'è... Allora, per evitare... è così, allora, c'è un signore però, cerca di tornare un attimo serio, Perezzo, perché questa... sono serissimo, c'è gente, è un che ha perso, c'è gente che ha perso un sacco di soldi con questa storia delle banche. E delle uno banche? Di... delle banche? Sai chi governa le banche? E si chiama... ma chi? Mario Draghi! Sì. Beh, governa le banche. La BCE! Sai cosa vuol dire BCE? Banca degli ebrei! Ah no, non è vero. Non è vero, vuol dire Banca Centrale Europea. Quello no. Ma lo dici tu! E lo dici tu! Con quel gatto in testa, morto! Ma non è che lo dici tu, è Banca Centrale Europea, è così, cioè, vabbè, mi dispiace. Allora. E questa gente, a questa gente tu dai fiato. Ma la possibilità no, di, abbiamo con noi. Sostiene cose. Senti, vuoi tornare un attimo in te, un secondo? Ma no, sono torno in me, Parenzo, torna in Parenzo semiserio, dai. Sono in me. C'è un signore che si chiama, che ha perso qualche migliaio di euro ed è arrabbiatissimo con il governo. Cosa si chiama fare io? Salvatore Giorgianni, chiama, credo, anzi l'abbiamo chiamato noi, da Venturina, giusto? Sì, giusto. Buonasera, poi... buonasera. Grande di Livorno, buonasera. Buonasera. Allora, conosco lei... benissimo Venturina. Benissimo. Vabbè, chi se ne frega, uno può dire, conosci Venturina. Signor Giorgianni, non gli interessa che tu conosci Venturina. Cioè, è sulla costa, se no, dov'è? All'interno, sì. No? Dov'è? No, se non la conosce si viene a trovare. Dov'è, è Giorgianni? A pochi chilometri da Livorno, guarda. A pochi chilometri da Livorno. Allora, Giorgianni, lei quanti soldi ha perso in questa storia delle banche? Ho perso un investimento di 32.000 euro. C'è gente che ha perso di più, ovviamente, no? Vabbè, 32.000 euro non è poco. Comunque, 32.000 non è poco. Ma erano tutti i suoi risparmi? Erano tutti i suoi risparmi? No, una parte. Per fortuna no, una parte. Una parte. Allora, io voglio capire una cosa. Lei ci crede innanzitutto che il governo poi alla fine restituirà una parte di questi soldi oppure non ha nessuna fiducia? Nessunissima fiducia, perché dopo il decreto che hanno fatto, uno come può avere fiducia nel governo? Senta, lei è un elettore di Renzi? Sì, un ex elettore di Renzi. Cioè, da questo momento in poi lei è un elettore storico della sinistra che adesso vota per Renzi oppure ha cambiato, eccetera? No, no, fino ad ora ho sempre votato a sinistra, ho sempre votato anche lui. E dunque, da questa storia in poi, lei non voterà più Renzi? Penso proprio di no, perché il comportamento che hanno avuto non lascia dubbi. Allora, i suoi soldi erano alla Banca Etruria, giusto? Sì, Banca Etruria. Cioè quella dove lavorava il papà della signora Boschi. Lei dà, qualche responsabilità anche alla signora Boschi oppure no? Io do soltanto una responsabilità enorme a parte gli amministratori, vabbè, ma in special modo la Banca Italia e la Consob, che non hanno vigilato per niente sull'operato di queste banche, perché... A noi ci hanno rifilato questa roba inconsapevolmente a cosa si andava incontro, perché i funzionari di banca che 20 anni che li conosco ci hanno prospettato questo investimento garantito, tranquillo. Cioè, non vi hanno detto che era un investimento a rischio? Per niente, ma ieri sentendo la manifestazione tutti quelli che sono venuti da tutte le città, a tutti si diceva la stessa cosa, cioè quindi non era una cosa preparata. Però scusi Giorgianni, uno magari nei contratti, adesso bisognerà andare a analizzare i contratti per fare le cause e tutto, e le cose magari scritte non particolarmente in grande, eccetera, come al solito ci possono essere delle clausole per le quali voi magari il rischio c'era evidenziato o no? Sì, può darsi, però c'è anche da dire una cosa. Io l'altro giorno, dopo quello che è successo, ho preso quei pochi risparmi che mi erano rimasti e sono andato in un'altra banca. Per aprire il conto in un'altra banca mi hanno fatto fare 50 firme e dopo le 50 firme mi hanno dato un piccolo, l'ho portato a casa e poi te lo leggi a casa. Ma ormai è già firmato. Sì, no, certo, poi queste cose... Lei aveva un rapporto solo per aprire un conto corrente. Certo, quindi... lei aveva un rapporto di fiducia, mi sembra di capire, con il coso, con il funzionario, con lo sportellista, come tutti arrivano con queste banche. Ma perché non le è andato a rincorrere sotto casa sua, scusa, per le stronzate che le ha raccontate, evidentemente? Perché siamo persone civili. Cioè, ma lei lo conosce personalmente, la persona che le ha detto questo investimento è sicuro, cioè lo conosce personalmente? Lo conosco sì, perché è sempre lì in banca, quindi. E perché non va là e dice, scusi, ma che cazzo mi hai detto? No, gliel'ho già detto, non è che non c'ho bisogno, sono già stato. Magari ha perso anche lui qualcosa da questa banca. Lui ha detto che per loro erano all'oscuro di tutto, che per loro erano sicuri che questi investimenti erano garantiti, che erano tutto, ma invece il risultato è che io il venerdì sono andato addirittura in banca e mi hanno detto di stare tranquillo, che non c'era problemi. E invece poi? Al massimo ci si poteva rimettere gli interessi su questi soldi. Sì. Il martedì mattina invece mi hanno detto che non c'era più niente. Senta una cosa, ma lei con chi è più incazzata? Anzi, che cosa? Ah, le dirò anche una cosa. Sì, sì. Che questi soldi che erano cedole semestrali con scadenza a ottobre aprile, a ottobre sono scaduta la cedola, il 4 di novembre mi hanno dato gli interessi sul conto corrente e il 22 il signor Renzi mi ha cancellato tutti i soldi. Cioè, com'è possibile che il 4 di novembre prendo gli interessi di questi soldi e il 22 novembre non c'ho più una lira? Perché? Perché quando fanno un decreto, perché le banche stavano fallendo per cambiare tutto, a un certo punto annullano... Cioè, le cose si fanno in un giorno, da un giorno all'altro, non è che ci mettono un mese. Sì, però se le banche fallivano, portavano i libri contabili in tribunale e poi si scopriva chi l'aveva portati via soldi. Invece in questo modo non si è capito niente, non ci si è rimesso. Il signor Renzi ha salvato le banche, basta, perché i dipendenti non l'ha salvati, come dice lui, perché quando i dipendenti lavorano, se hanno lavoro, ma chi ci va più in quelle banche, anche se ci hanno messo nuova davanti? Adesso vedremo, certamente il fatto che voi ritirate i soldi mette in difficoltà quelle banche, non c'è dubbio. Infatti, io aspetto che arrivi l'ultimo estratto conti della carta di credito e poi chiudo tutto. Scusi un attimo, però uno potrebbe dire... un investimento è sempre un investimento a rischio, in fin dei conti voi avete degli interessi anche alti, da quello che mi dicono. Adesso io non sono un esperto, mi sono fatto una madre. No, guardi, io dico subito che interessi. A me mi hanno chiamato 5%. Ecco, prendevo il 3,5% nelle librette risparmio e mi hanno dato il 5% di latte. Non è poco. Dunque c'era un rischio che lei doveva aspettarsi, non è che regalano i soldi. No, non è questione, è che loro mi hanno detto che l'investimento era sicuro, garantito. Era garantito. Il capitale garantito, perché se il capitale non era garantito, io mi ritenevo i miei libretti di risparmio certo, e tanti saluti. Comunque, e uno che con tanta fatica, certo, un pensionato, mette da parte dei soldi e poi se le fa portare via così. Non siamo... cioè uno quando compra le azioni lo sa cosa può succedere, ma uno quando va in banca gli dicono che soltanto poi che è sicuro, eccetera, certo, oltretutto ce l'hanno dati come vincolati, cioè che erano investimenti a 3 anni, a 5 anni. Scusi, ma lei con chi è più incazzato? Con la banca che le ha consigliato un investimento sicuro e poi sicuro non era, col governo che ha fatto questa roba qui, con chi non ha vigilato, tutto insieme? Le posso distribuire equamente con tutti. Con tutti, perché, sì, perché questo il funzionario che me l'ha consigliati, perché senz'altro la direzione l'ha obbligato a farli, penso, perché sì, se no se lei avesse di fronte Renzi in questo momento che farebbe? Gli direi di stare molto attento quando in 15 minuti decide sul destino di tante persone. Cioè, ma se viene da quelle parti lì rischia qualcosa Renzi? Cioè, se viene dalle vostre... qualche figuraccia la rischia, perché no, ma rischia proprio anche l'incolumità, No, l'incolumità, noi non siamo, almeno io non sono una persona violenta, però allora, fermo lì che c'è la... senz'altro le mie gliele direi senz'altro. Fermo lì che c'è la pubblicità e poi torniamo. Davide, vi voglio bene, vi voglio bene. La Zanzara. Mentre il Parlamento è in ferie, chiuso dal 4 al 14, so che queste cose non ti piacciono, Parenzo, però io sono convinto, fai benissimo a ricordarlo, che il signor Giorgianni, il signor Salvatore Giorgianni, che aveva 32.000 euro alla Banca Etruria, non sia nemmeno troppo contento del fatto che ci siano i parlamentari che fino al 14 si prendono le loro vacanze senza pensare magari di risolvere in fretta un problema che hanno in parte, non certamente solo loro, creato, perché è evidente che questo Giorgiani magari avrebbe perso i soldi lo stesso con il fallimento definitivo di queste banche, non lo so, non lo sappiamo. Intanto i suoi risparmi, che pure erano leggermente a rischio ma nessuno gliel'aveva detto, almeno secondo quello che ci racconta, sono evaporati da una sera all'altra. Scusi, lei come si è visto all'improvviso, come dire, no? Sparire questi soldi, signor Giorgiani, all'improvviso, così un giorno si è svegliato. Che è successo? È successo che sono andato in banca e mi hanno detto che i miei fogli erano carta straccia, che non avevo più niente. Tutto carta straccia. Come il sale della Vanna Marchi, dai, uguale. Uguale. Io però voglio dire una cosa, abbiamo detto lei è incazzato come una biscia, soprattutto con chi non ha vigilato, è incazzato con Renzi perché ha fatto questa cosa. Renzi dice che naturalmente non poteva fare altrimenti, lei ci crede? Questo non è vero. Cosa poteva fare però adesso oggettivamente, mi interessa niente difendere Renzi, non c'entra niente. Perché Renzi, perché la banca è un istituto privato, non è pubblico, no? Guardi, io gli dico solo questo. col Monte dei Paschi hanno speso 4 miliardi e mezzo e tutti sono stati zitti. Con i nostri risparmi e con le nostre tasse hanno salvato le banche greche, quelle portoghesi, quelle irlandesi e tutti sono stati zitti. Ma e infatti le hanno salvate queste? La banca, infatti queste banche, diciamo piccole, i risparmiatori greci non hanno perso una lira, non hanno perso un euro. Ma la banca è stata salvata, però. No, però lui dice, alcuni risparmiatori... No, momento, era stata salvata la banca, ma i risparmiatori no. Alcuni risparmiatori, alcuni risparmiatori titolari di certe obbligazioni. Ma poi se non avessero fatto quell'intervento, quasi. Se non entro nel merito, ma non si sarebbero salvati neanche quei pochi che si sono salvati. Lei purtroppo è tra i sommersi, diciamo, ma ci sono i salvati anche. Ma quali questo grazie salvati? A un intervento alcuni beh, no, guardi, leggere. Beh, guardi, il discorso è questo, alcuni correntisti sono stati si sono salvati, diciamo, dal i correntisti, per esempio, sì, ma, quelli che avevano i soldi dentro i conti correnti, certo. si rende conto che con questo discorso, quando entrerà a gennaio questo discorso, salveranno i correntisti per 100.000 euro e hanno levato i risparmi a gente con 10, 15, 20.000, 30.000, 40.000, 50.000. No, guardi, ma le persone di 80 anni, 85, secondo voi, che sono grandi speculatori in borsa. Scusi Giorgiani, ma lei che farà adesso? Denunce o altre cose del genere? Chiaro che si farà denuncia. Ma chi? Sono già consorziato con la Confconsumatori. Ma chi vuole denunciare? La Banca d'Italia, prima la Banca d'Italia doveva vigilare e poi anche il governo ha le sue colpe, perché il governo cosa ci sta a fare in un paese se non vigila su queste cose? Però scusi Giorgiani, guardi, le dico un'altra cosa, che mi sta a cuore, che mercoledì tutti gli italiani vanno in un banca a controllare cosa gli hanno venduto e scopriranno che non siamo solo noi a essere stati turlupinati dalla banca. Sì, ma quello e uno vanno in banca, sì. Si accorgeranno che anche le altre banche hanno venduto questi prodotti a piccoli risparmiatori e non potevano farlo. Ma lei addirittura, se non sbaglio, quando ha chiesto il mutuo l'hanno quasi obbligata a sottoscrivere certe obbligazioni, è vero? Quando, nel 95, sì. Quando ho chiesto un prestito per mia moglie, perché aveva una piccola attività, aveva bisogno di un mezzo nuovo per poter prendere il prestito, mi hanno chiesto di comprare delle azioni, ma ho chiesto nel 95 3 milioni di lire di azioni per poter accedere al mutuo. Era un consiglio o l'hanno obbligata? No, era un obbligo, perché non era un consiglio. Se le prendevo quelli, diventavo socio e mi davano il prestito. Se vabbè, no, questo di per sé però non è... Scusi, adesso ho tolto il caso, non entro nel merito, ma di per sé non è sbagliato. Cioè, una banca può scegliere, che è un privato, può scegliere qualunque benissimo. Condizione. Ma guardi... Basta che non sia una truffa il meccanismo. Ma in questi vent'anni queste azioni hanno oscillato talmente tanto che da ultimo l'anno scorso addirittura erano a 60 questo euro, perché, quindi ma, scusi, da 3 ma non milioni. Adesso non è il suo caso, ma non è obbligo della banca dare il mutuo, eh? Cioè, no, usciamo dalla logica che uno va in banca e la banca, se no. Io voglio capire una cosa, lei non si sente. Sto recriminando questo. Giorgiani, però scusi, Giorgiani, io voglio fare un'ultima domanda, che è questa. Io lei... sto recriminando soltanto che se ero informato dalla banca cosa stavano vendendo, esatto. Io non l'avrei giusto, fatto. Giusto, esatto. Certo, questo è fondamentale. Altro. L'informazione, giusto. Secondo lui non c'è stata, l'hanno turlupinato. Non si sente sicuro anche, l'hanno turlupinato. Non si sente anche un po' coglione, Giorgiani. Scusi, se uso questa parola. Che ne sa? No, perché magari. Ma mica è un economista della Bocconi. Ma gli sto chiedendo una cosa, non per insultare. Poverino. Sto dicendo una cosa, per essere stato raggirato, magari per non aver approfondito, per non essersi interessato, non si sente anche un po' così a disagio, un po' coglione, diciamolo tu. Sì, un po' coglione essermi fidato delle persone che per 20 anni mi hanno tenuto conti in banca e tutto, perché certo. Non è che io sono andato dal primo venuto, ma erano persone che erano 20 anni che conoscevo. Certo. Ma il termine è fiducia. Tutti i giorni vedevo in banca, certo. Quindi. Certo. Ma va come bene. Quando tu vai dal medico, il medico ti dà una... questo qua conosceva se quello... Se tu non sei medico, certo. Quando vai in banca è lo stesso atteggiamento quando vai dal medico. Se non sei un medico, scusa, ho male al sedere. Ah, dice, allora ti do questa medicina. Se poi ti fa male, tu ti fidi del medico. No, ti ma lui soprattutto, solo, no? Soprattutto quando è il medico di base. In questo caso è la banca di base, banca quella vicina a casa. Medico di... Esatto. Quella vicina a casa. E lui si fidava della persona, esatto, con cui andava, esatto, a parlare allo sportello. Ecco, quindi guardi, io dico che è tondo, non sono, nella mia vita non ho mai chiesto niente a nessuno e ho sempre agito di tasca mia. Se sapevo quello che rischiavo, non l'avrebbe fatto. Specchio, andavo davanti allo specchio quella mattina e dicevo: caro Salvatore, hai fatto una cavolata. Invece non sapeva nulla. Va bene, grazie Salvatore. Io, siccome non sapevo nulla, sì. Questo mi dà di molto fastidio. Ciao Salvatore, ciao. Ciao, grazie ciao. A tutti. Ciao Salvatore. Oh, ma alla fine Efe ci è andato davvero davanti alla scala, eh? No, ma cioè, io voglio dirti, ma hai visto il look straordinario anche della nostra tutta amica Danielina? Nera, la signora ma Efe Danielina? Ball. Chi? Danielina Santanché? Sì, sì. Ma hai visto che bella che era, tutta di verde padano? Era sì, verde, vestita di verde. No, ma ha rotto un protocollo, cioè Efe Ball, la storia, però eh? Non si può, ha parlato di prostituzione pure alla scala, cioè, ripeto, signor Efe Ball ha pagato, ce l'ho detto giovedì scorso, 2000 euro, 2000 euro in contanti, non so manco se si può, più 200 euro poi chissà perché, 2000 euro in contanti e 200 euro di bancomat. Diritti di prevendita forse. Boh, no, no, non credo. 200 euro di bancomat per andare alla scala, dove ha cominciato a parlare di prostituzione. È la prima volta in scala una transessuale, una prostituta, per dire sì che dobbiamo regolarizzare la prostituzione, per dire sì che dobbiamo fare per qualche cosa a unioni civili. Momento giusto e io sono qui. Lei è proprio sicura che sia la prima volta che un trans mette piede? Quante ne so io, per la prima volta un uomo vestito da donna viene a, alla scala. Poi che sono state altre prostitute potrebbe anche essere, immagino di sì, però per la prima volta una transessuale. Giovanna D'Arco le dice qualcosa, non ero proprio, io mi vedo in lei, una batteliera. Giovanna D'Arco. Una batteliera come me. Io sono una batteliera, oggi per essere qui uno deve avere coraggio. Vabbè, oh, dai, coraggio, devi avere i soldi e pagare il biglietto. Siamo dai, alla follia, l'evento dai, cos'è? Efe Ball che va alla scala, che questo è l'evento. Francesco da Roma, Francesco ma da Roma. Il mondo al contrario, come se tutto il mondo aspettasse l'arrivo di Efe Ball alla scala. Cioè, la prima volta che c'è un trans alla scala. A proposito di trans, la signora Luxuri ha detto una cosa molto interessante, Vladimir, su perché gli uomini amano andare a transessuali. Perché è una realtà questa qua, no? Cioè negli ultimi anni c'è questa tendenza, uomini, sì. Beh sì, una certa, un numero sempre maggiore di uomini vuole provare il transessuale. Dice la signora Luxuria, ci sono quelli che vanno con le donne e con i trans, i ragazzi spesso ci vanno una volta per provare e poi mai più, alcuni si appassionano, ma la maggior parte non è attratta dai trans come surrogato della donna, ma perché è una creatura sui generis, una specie di alieno praticamente, no? Con cui puoi essere attivo e passivo, e fin qui diciamo è abbastanza comprensibile. E allora domanda, sono omosessuali nascosti? Perché uno dice, chi va coi trans, spesso mi è stata rivolta questa parola, tu che vai coi trans, in realtà non è vero, è un omosessuale nascosto? No, beh, sì. Risponde giustamente Luxuria, no, assolutamente non, vedi che apparenza, non capisci una mazza. L'omosessuale ama la mascolinità e i trans invece sono molto molto femminili, anche nella sensibilità, ah, beh, questo. Non lo sapevo. Si sentono donne, dunque... andare con i trans e l'omosessualità non c'entra assolutamente nulla. Io conosco un sacco di gente che va con i trans e non è assolutamente omosessuale, ma nella maniera più assoluta, non toccherebbe un uomo mai. Piace l'idea della femminilità in un alieno, in una specie di alieno che certamente poi è il pisello, non c'è dubbio, ragazzi, è così. Ma è la vita, Parenzo, la realtà, no, bisogna analizzare la realtà. Francesco da Roma, vai, Francesco. Ciao Giuseppe, io ti volevo parlare di figa. Beh, in che senso, scusa Francesco? Stavo parlando di islamiche prima, qualche giorno fa parlavi di sì, parlavamo di islamiche, sì, di rapporto tra islam e sesso, sì, sì. Io lo volevo confermare perché cioè? Ho avuto un'esperienza diretta. Siamo andati a Marrakesh anni fa. Tu sì. Sei stato? Sì, Marrakesh no, in Marocco no, no. Beh, Marrakesh è strepitosa, veramente una quantità di figa. Ma che vuol dire una quantità di figa? Come in tutto il mondo, peraltro. Cioè, non le è che donne marocchine sono bellissime. Sì. E adorano l'anale. No, veramente adesso, lo adorano. Perché dici questa cosa qua? Dalle un'esperienza perché, diretta? Perché sì, noi eravamo a Marrakesh. Ah, per questa storia della verginità, tu dici? Esatto, siamo stati noi adescati da un paio di bellissime fanciulle marocchine. Sì, sì. E insomma, al momento del dunque, una delle due dice, quella che parlava inglese, dice... guarda, la mia amica è vergine, but she loves anal. Mm. Ah, no. She loves anal. Esatto. Ma perché tu dici che c'è questa cosa qua? Per evitare di essere... Le donne, esatto. Sì, non è che lo dico, è così. Tantissime, ma è così adesso. Fanno... Tantissime fanno, guarda, diciamo... Marrakesh, in assoluto, un gourmet della figa come te, che mai farà Marrakesh. Vabbè, ragazzi, non sono stato a Marrakesh, che devo fare? Cioè, amico mio. Amico mio, Francesco. Lascia stare le rumene. Ma io non è che vado, ma scusa, a parte una reputazione, mi pare abbastanza. È andato. Sì, ma no, ma non mi interessa. Ma allora il problema fondamentale è un altro. Non è che io viaggio, non è che ma non viaggio per le donne, non me ne frega niente. Questo hanno percepito. Ma che c'entra? Manco noi eravamo lì per le donne, eravamo a Marrakesh perché è bella, eccetera, eccetera, eccetera. E le donne marocchine sono bellissime, care. Care in che senso? Ah, perché tu sei andata a prostituta in Marocco? Tu, certo. Certo. Parezzo, capito? Certo, è certo, è certo. Perché lo metti in dubbio? Non vabbè, comunque, comunque tu dici che si pratica un certo tipo di sesso in, in Marocco. Esatto, in Marocco. Esatto. Sempre per la storia della religione, tu dici la verginità, cioè si mantiene. Ma sai che c'è addirittura una pornostar? Non penso proprio che sia per la religione. No, nei giorni scorsi, per una questione di che allora? Ma magari se poi quella si sposare con un marocchino e quello vede che lei non è più vergine, magari la bastona, che non so. Beh sì, comunque sempre legato alla religione. Nei giorni, nei giorni scorsi è uscita una storia quella là, sì certo, nei giorni scorsi è uscita una storia di una pornostar americana, Parenzo, la quale è vergine incredibilmente. Cioè, sembra incredibile, no? Una pornostar vergine. Della natura, no, perché avendo un problema di vaginismo, eccetera, non può fare sesso, diciamo, in modo tradizionale. È una storia, no? Che mi attanaglia proprio. No, non ti appassiona questa mi storia. Mi appassiona da morire. Non ti appassiona. Studiare il caso. Cioè, una pornostar vergine non ti appassiona. Di questa lavoratrice. Di questa una pornostar vergine non ti appassiona, vabbè. Non che so, ti devo fare? Vabbè, pubblicità. Ma non potete iniziare alle 18, che c'è già gran voglia di zanzare. Stufe e caldaie Termorossi, una promessa di calore per un amore di casa. Vi presenta La Zanzara. Torna la rubrica Tipi da Zanzara. Tipi da Zanzara. Mauro, chi è? Ma chi è che parla? Ah, sei tu, sei Mauro, sei tu, sei tu. Io ho chi cazzo che sia. Che ne so, Mauro davanti, non è che esisti solo tu davanti, eh. Cioè... Purtroppo sì, è un marchio di fabbrica. Vai, Mauro, dimmi caro, dimmi. Hai tirato la catena? Ma possibile? Ma mai una volta che ti ricordi tirare la catena? Gli stronzi devono andare nella biologica, altrimenti puzzano. Te lo devo sempre dire, Giuseppe. Ma a chi ti riferisci, scusa, Mauro? Ma lo stronzo che c'hai di vicino. Devi sapere che Mauro gira con una serie di ritagli di giornale vecchissimi per dimostrare le sue tesi su De Benedetti, tutte queste robe, certo, qua, no? Ragazzi, certo, stiamo certo. Ritagli di giornale vecchi degli anni 90. Ma sei tu che lo frequenti, sto povero Marco? Certo, ma capisco che non avendo nessuno... Sono del 96! Fai anche un'opera... Fai anche un'opera di bene che Luciano, perché è un poveretto, un miserabile, uno che non ha famiglia, uno che è da solo. Quindi fai bene tu a ogni tanto a portare il vino. Tu sei un povero malato mentale. Cioè, Mauro, sai quando si ha... Ma sai che c'è? Giuseppe, quel gatto in testa, sai che c'è? Ma sai che c'è? Ma che fai, lo imiti? Lo imiti? Ma sai che c'è? Ma sai che le torri gemelle? Ma sai che c'è? Ma sai che le torri gemelle le hanno tirate giù gli animalisti con i vegani? Sai che c'è? Ma sai che è stato Pisapia? Quella merda? Ma sai che è stato Pisapia a tirare giù le torri gemelle? Sai che c'è? Ma sai che c'è? Aspetta, Mauro! Ma sai che Pisapia ha dato fuoco al Duomo di Milano? Lo sai o no che Pisapia ha dato fuoco? No, non è vero. Ma sì, lo hai visto? È il Duomo di Milano ha dato fuoco. Sai che c'è? Sai che gli islamici hanno sostituito la Madonnina col simbolo del califfo? Lo sai che Mauro. C'è? Sono stati comunisti. Sai che c'è? Arrastante sei, coglione. Bene. Grandissimo coglione. Ma sai che c'è? L'hanno candidato in lista? I comunisti? Sai che c'è? Sai che c'è? Se lo fai star dietro il giorno sulla telefonata, ma già fatto il giorno di coglioni. Quel coglione lì. Forse almeno simpatico. Invece è antipatico proprio come un gatto con gli artigli attaccati ai coglioni. Tipi da Zanzara. Comunque l'hai fatto andare fuori di testa, Completamente. Hai trovato il modo la chiave, di fare. Sì. Hai trovato la chiave per farlo impazzire. Cioè, Mauro, devi rispondere a queste provocazioni. Hai non perso può, stavolta. Duello, distorto, stavolta. Finito, stavolta il duello l'hai perso, Mauro. Mi dispiace, ma il duello è stato perso. Devo ammettere che il duello l'ha vinto Parenzo. Ti ha fatto impazzire. Non sei rispiazzato. Non sapevi più cosa dire. Non sapevi più cosa dire. Distrutto, eri morto, finito, dialetticamente morto. E che oggettivamente. Per fortuna. è difficile, perché Mauro ha una buona dialettica, diciamo, dice sempre le stesse cose, però è una buona dialettica. Allora, con te spesso ti ha annichilito, cioè spesso ti ha distrutto, ti ha silenziato. Rifiutavo l'ingaggio, ma lo abbiamo sconfitto con le armi dell'ironia. Allora, la notizia è questa: Parenzo, sì, con le armi dell'ironia ha distrutto Mauro D'Amanto. Questa è la realtà, ha completamente distrutto Mauro D'Amanto. Allora ragazzi, andiamo a Lugano da Giacomo. Pronto? Vai, dimmi. Pronto. Ciao Cruciani, innanzitutto buonasera come prima cosa. Vai, dimmi. Ciao, guarda, volevo dire una cosa, volevo dire che ho sentito che eri stato al Globe un paio di settimane fa in Schwarzenbach, vicino a Zurigo. Sì, sì, allora? Allora, raccontarti che io sono fidanzato con una ragazza che lavora al Globe. Siamo veramente a top. Scusa, come fai a essere fidanzato? Ma questo è interessante. Cioè, Giacomo da Lugano, adesso bisogna vedere se poi è vero. Mi fido sempre delle persone che ci chiamano. Guarda, ti do anche il nome, ti do anche il cognome, controlli su Facebook e quant'altro, per quello che mi interessa. Come si chiama questa signorina? Si chiama il nome d'arte Julie. Poi vero non posso darlo. La signora Julie, di che nazionalità? Tedesca, ovviamente tedesca. Tedesca. Signora Julie, che è bionda alta? Signora Julie. Bionda alta, 1,75 m, naturalmente infisicata, decisamente, assolutamente primissimo livello. Ma mi sembra di averla incrociata, signora Julie. Immaginavo infatti che... No, l'ho vista da lontano, poi i signori mi dicono, guarda, questa qua è la più bella di tutte che c'è al Globe. Sì, infatti, arrivò nel 2013, arrivò seconda. Scusa, però adesso la curiosità, seconda in che cosa? Spiegami. Allora, perché ogni anno fanno per la festa di Capodanno il Mrs. Globe, cioè quella che vince la troia più votata. Sì, la troia più votata. Sarebbe sempre la sua fidanzata, poi peraltro. Vabbè, ho capito, ragazzo mio, cosa devo dire? No, perché io sono a favore. Quello parla italiano, non parla italiano. Ma io chiariamoci. Dimmi, no, a me non è che la cosa scandalizzi per niente. Per l'amor di Dio. Però è vero, rispetto il fatto che lei è fidanzato e lo rivendica anche con una troia. Dopodiché, ma guardi, io non voglio passare per bacchettone perché davvero per frega niente. Se lei è con... No, ma davvero, veramente. Ecco, non dire che è normale, vuol dire dire che è normale. Se giusto? Per lei è normale. No, no, non è normale. Essere fidanzato con uno che lei dice una troia. Io ho aperto la modernità, non faccio discuto di niente. Se lo ritiene normale, però, c'è una piccolissima percentuale di bacchettoni fatta dal sottoscritto 0,01%. No, non ho detto che è normale. Non essere fidanzato con una troia. Siete normali voi, io non entro nel merito in questo. No, aspetta, carissimo. Mi permetto di darti il carissimo. Poi, per carità. Non ho detto che è normale, diciamo che subisco la situazione stoicamente, però non dico che però è normale. Però scusami Giacomo, dimmi caro, dove abiti? Sua fidanzata lavorando non esattamente in un supermarket o da un notaio, la sua fidanzata verosimilmente in questo momento sta facendo un popino, diciamo. Sì, esatto. Non lo so. Oggi lavora pure. Cioè, però non mi dica che questo è normale, non ho mai detto che è normale, io subisco stoicamente. Ma scusa, però perché adesso lo devi mettere in imbarazzo più di quanto già magari non lo è, signor Giacomo? Io abito a Lugano. Sì, abiti a Lugano. Però sono italiano comunque, direi. Ma perché sei a Lugano da tempo, oppure perché sei trasferito apposta per le mignotte? No, lavoro, prima ho lavorato in giro per l'Europa, poi mi sono stato trasferito per lavoro a Lugano. Beh, hai trovato il tuo Eden, in sostanza, sì, però siamo cominciati a frequentare quando lavoravo ben più lontano che da Lugano. Ecco, ma io voglio dire, perché ti sei messo, come mai ti sei fidanzato con una zoccola del... Perché sarai innamorato. Sì, dimmi. No, innamorato è una parolona. Beh, diciamo che sei fidanzato, hai detto. Ah, sì, vabbè, capito, non è che sia proprio un fidanzamento ufficiale in pompa magna. La porti a casa, la presenti ai suoi genitori, dica guarda, questo lavoro fa, cara ragazza. Scusa, allora adesso però Giacomo, sei fidanzato o no? Non ho capito, sei fidanzato? Sì, sono fidanzato, però è una cosa abbastanza leggera, diciamo, non è il fidanzamento della vita. No, d'accordo, però sei fidanzato nel senso che fuori dall'orario di lavoro lei frequenta te, non frequenta altri, no? Oppure siete liberi di fare quello che volete? No, ma io sono abbastanza fedele, sono fedele. Sei fedele, poi... sei fedele, diciamo, a Julie. Beh, spettacolare, fedele a Julie. Come senti? Ci siamo conosciuti, dicevo... Scusa, ma la signora Julie parla italiano? No, inglese. Parla inglese. Ti chiamavo, scusa. col cazzo che chiami, nel senso che tanto non conosce la Zanzara e tutto. No, esatto, nel dubbio. No, ogni tanto gliel'ho fatta sentire, però non capendo, ero un po'. Ah, la signora Giulie, come vedi, incroci dalla vita. La signora Giulie, che ho incrociato un po', intravisto, anzi, più che incrociato. Un tuo parere, così, d'amblè, un tuo parere. Beh, devo dire, Giacomo, che è molto, molto carina. Molto, grazie, molto carina. Il tuo parere è quello di Feltri, l'unico che importa nella mia vita. No, ma adesso questo non esageriamo, però. Sarà il parere di Cruciani e di altre migliaia di persone che hanno avuto il piacere. No, io no, però devo dire, non ci sono stato, non ci sono stato. Per la prossima volta che vado a Globe, però potresti accompagnarmi, così mi fai andare con Giulie, mi dai una prelazione, perché è molto richiesto, ho visto. È molto... Sì, infatti, però, infatti, ti devo essere sincero, questo è stato l'unico slabbro della mia vita che ho fatto. Qui ho tirato una culata, cioè? Allucinante, nel senso che sono stato abbastanza sfigato con le donne. Tu sei stato sfigato, ma che cosa gli offri? Adesso, questa Giulie, perché si deve, che è una gran figa, devo dire la verità, una prostituta, gran figa tedesca che lavora al Globe, no, perché dovrebbe fidanzarsi con uno come te? Che sei stato sfigato con le donne? Sei ricco? No, beh, sei ricco? Moderatamente, normale. Sei normale. Ricco, dai, sei ricco. Che no, cosa, cosa gli dai in cambio? No, ma lei guadagna molto più di me, lei. Tre volte più di me guadagna. Beh, ma no, lui sono molto colto, estremamente simpatico. Poi sono. Beh, molto, cioè, non me ne frega. Molto. Diciamo che vado al culo col mondo. Quindi a lei fa piacere quello, avere qualcuno che le faccia compagnia e quant'altro. Che non sia un bacchettone, altro. Ma ho capito, Giacomo, però è una cosa così, sì, allora. Cioè, non è una cosa. Ho capito, sì. Diciamo che finché. Cioè, se uno lo chiede, se uno chiede a questa Giulie con chi sei fidanzato, dice con Giacomo, sono fidanzato. Sì. Oh, sono fidanzato con Giacomo. Sei il fidanzato di Giulie. Vabbè. Sì. Ma ragazzi, questa è veramente una cosa strana, eh? È veramente una cosa strana. Cioè, ma le ragazze sono fidanzate, quelle là, di solito? Ma molte sì, molte, molte sì. Sono fidanzate. Ma tu come ti senti essere fidanzato con una... Cioè, praticamente non fai sesso con questa, perché questa qua... No, però adesso faccio sesso, adesso non... Abbastanza, quando cioè, sono come libero... Fanno queste... Come fanno queste qua a fare sesso dopo che scoprono tutto il giorno con i clienti? Spiegami. Beh, perché una cosa è mi fisica e l'altra è mentale. È tutta la differenza di sto mondo... Poi dopo, cioè comunque anche loro hanno periodi di pausa. Ma te, il fatto che questa qua sia stata due minuti prima con un tizio, magari un gran ciccione enorme, esatto, una bestia. Parenzo della situazione. No, parenzo non è ciccione, è uno sudato, sì, schifoso, brutto, sì, sì, panzone, lì, sì, boom, boom, che spinge, sbatte addosso, e lei debba fare di tutto così, non ti fa schifo la cosa? Ma no, poi c'è, comunque non la vedo mai il giorno stesso che ha finito di lavorare, ci vediamo qualche giorno dopo, quando abbiamo i weekend lunghi insieme, così. Ci sono passato sopra, non è che ci sto, si pensa. Non te ne frega niente. Ma non no, perfetto, sono contento così, scopo una gran figa gratis, mi paghi i conti fuori, mi regala delle cose allucinanti. No, ma scusa, però adesso la cosa non ho capito, cioè ti paga anche delle robe questa qua? Ma no, ho capito, ma guadagna Cristo, guadagna... Ho capito, ma perché dovrebbe essere fidanzata con te? Una così dovrebbe essere fidanzata con un, con, non so, con un milionario, con uno, non è che è costretta pure lei a pagare, ma non ti può amare una cosa, è impossibile, perché ti ama? Ma perché? Te l'ho detto, perché lo sono, perché per loro è difficile trovare gente che non le giudichi e quant'altro. Quindi il problema grave è che loro sono bannate. Io sono sconvolto, ragazzi, da questa. Ma hai capito che loro sono bannate dalla società civile, sono bannate. Invece trova uno che non gliene frega niente, che non è anche, diciamo, non è neanche un mostro, è simpatico e quant'altro, li sta volentieri. Poi ho detto, pensa, naturalmente quando finiranno il lavoro, magari mi manda a quel paese. Però fin tanto. Tu ti rendi conto, questo è fidanzato con Giulie, una che ho intravisto. Non ho idea di chi sia, la vita è fatta, capito? La storia della separazione. Beh, diciamo che ti ascolto. Ti racconto, io ti ascolto da 9 anni, da quando mia madre mi veniva a prendere fuori da scherma. Radio 24, si mangiava il religioso silenzio con te su Radio 24, poi sono andato avanti tutti i giorni ad ascoltarti per 9 anni. Anche tu hai fatto scherma da ragazzino? Quindi, ma che cazzo c'è tra la scherma? No, perché anch'io da ragazzino ho fatto scherma. Ma chi se ne frega? C'è sempre il colpo di punta, visto? C'è sempre il colpo di punta. Bravo, no, questo lo rende una persona anche elegante. Perché si può essere fidanzati, dobbiamo aprire un grande dibattito, si può essere fidanzati con una prostituta? Questo è il punto fondamentale. Certo che sì. Si può essere fidanzati. Giacomo è l'incarnazione di uno che è fidanzato con una prostituta molto bella. Giacomo, mandami questo numero magico che è sempre il solito 393 71 71 701, mandami le foto tue e insieme però a questa Giulie. Però non le pubblicare, se adesso cribio, se no, adesso ma ti pare che pubblico le foto? Ma quindi quale numero le vuoi? Quello di WhatsApp? 393 71 71 701. Aspetta, per sicurezza ti do anche il cellulare di Cruciani. No, perché c'è il cellulare? Aspetta, ripeti, sì, 348. No, 393 è un ascoltatore, menta, rispetto, 348 71 71 701 701, perfetto, ti mando le foto. Giacomo, il fidanzato di una prostituta, sì, di un bordello svizzero. La cosa fondamentale, è che prende uno sbanderno di soldi. Quanto guadagna lei? 20-25 mila franchi al mese. 20-25 mila franchi al mese, sì. Sarebbero più o meno 20-25 mila euro, diciamo. Sono 20 mila euro al mese. Quindi sono 200 più tutti i regalini che i vari sciurotti le fanno, tipo orologi in oro. Ma lei fa la prostituta pure fuori dal bordello? No, perché non possono. Quelle che lavorano al Globo non possono farlo. Vabbè. C'è un'etichetta anche lì, mettiamola così. Va bene, Giacomo, ciao caro. Ciao. Cruciani, ma va suca! State ascoltando un programma offerto da San Martino di Castrozza, Passorolle, spettacolo e avventura tra le Dolomiti. La Zanzara. Parenzo, già il nome che c'hai fa cagà, perché fa cagà. Ma io mi domando e dico, ma perché non dai un senso alla tua vita? Fai qualcosa, vai a lavorare, parassita, vai a lavorare. Beppe, sono andato sul sito della Turca lì, la F, per vedere un po' il suo programma elettorale. Beh, niente da dire, c'è lei che in videomessaggio all'apertura del sito, che salta su un letto con il cazzoritto, promette a tutti di farli impazzire. Beh, diciamo che a me basta, vado a fiducia. Cruciani, sai che c'è? Non hanno capito che esiste il popolo della zanzara e siamo tantissimi. Allora ragazzi, c'è un signore in questi giorni di grandi minacce, ma chi se ne frega, poi delle minacce non sono di quelli che strilla, che va in procura, eccetera, eccetera. Parenzo, lo sai, me ne fotto poi di quelli che minacciano, ma che vado in procura contro i nazi vegani che mi vogliono morto, ma che me ne frega? No, fai male perché la gente va sanzionata per quelle cose che dice cattive. Ma io sono contrario ai web, è un posto di grandissima libertà, di enorme libertà. Ma la libertà non è insultare. No, ma anche quella di insultare, sì, secondo è anche quella no. di insultare, ma però, perché, certamente non vado in procura, però c'è un signore... Come quelli a cui piace essere picchiati e sculacciati. Ma no, ma non è questo, dai. C'è un signore che si chiama Luciano, lo posso dire tranquillamente, Luciano Veronese, il quale ha scritto, sempre riferito alla storia del coniglio, eccetera, eccetera, bruciate vive queste teste di cazzo che sono nocive per la collettività, riferendosi ovviamente al sottoscritto. Cioè dire, vorrebbe bruciarmi vivo. Io quando uno scrive bruciate vive ci credo, cioè bruciatelo vivo, ci credo che uno abbia questa intenzione, cioè l'intenzione di uccidermi, di massacrarmi nel modo più violento che c'è. Cioè dire, bruciare viva una persona, come fanno, come dire, no? Magari all'ISIS, no? Sì. Come fanno nello Stato Islamico quelle teste di cazzo. Poi testa di cazzo invece è una cosa, cioè, che non considero assolutamente un'offesa, è una roba così. Luciano Veronese l'ho chiamato, sentiamo. Pronto? Sì, Veronese? Sì, esatto. Sì, buonasera. Volevo dirle che bruciare vive le persone non è una cosa così complicata, poi lo sa? Se si riferisce al mio post su Facebook, sì. Mi rammenti anche il tema che affrontiamo. Allora, bruciate vive queste teste di cazzo che sono nocive per la collettività. No, volevo darle un consiglio, bruciare vive le persone. No, ma io vorrei adesso, non proprio su Facebook, vorrei andare a vedere in che condizioni l'ho scritto e dove. Ma le condizioni, non lo so, è uguale che lei, ero ubriaco. Beh, forse? No, almeno, ero ubriaco? Almeno visto che lei... No, ero lucido. Ho fatto vedere un coniglio morto in radio, te lo dico subito. Sei Cruciani, bravo. Sì. Allora adesso mi viene in mente una cosa. Sì, dimmi. Naturalmente non voglio interromperti. Innanzitutto la frase è forte, ma non solo non la rinego, ma nel tuo caso confermo la validità di quella frase. Cioè, nel senso letterale, ma nel senso, nel senso significativo. Per un motivo. Cioè, devo bruciare vivo. Devo bruciare vivo. Sì, bruciare secondo me vivo. Le persone che hanno un valore simbolico e creano opinione e producono una cosa del genere in migliaia di persone che le seguono, hanno un onere, una responsabilità morale. Vabbè, dunque la frase è chiaramente provocatoria, perché intendiamo provocatoria, certo, la provocazione è bruciare vivo qualcuno e soprattutto queste teste di cazzo. Beh, teste di cazzo, tu vabbè. Che fai queste provocazioni in radio e che sei re delle provocazioni, non riesci a capire all'improvviso che un altro può aver usato il tuo linguaggio? Bruciare vivo, io non l'ho mai detto in vita mia, scusa se te lo ricordo. Bruciare peggio. Che cosa ho fatto di peggio? Che cosa ho fatto? Vorrei farlo. No, ma cosa ho fatto? Tu hai influito su un mare di persone che in quel momento, trovando in te una persona famosa, opinion maker e leader, possono ricredersi su un eventuale cambiamento che potevano offrire alla società, possono acquisire sicurezza nella loro idea e di beh, allora perché qual è il problema? Perché qual è il problema se uno continua a mangiare coniglio, scusa? Lo spiego subito. È un assassino? È un assassino? Lo spiego subito. Però prima mi interessava chiedere. È un assassino o no? È un assassino o no? Chi mangia il coniglio? Sì. Ma tu sei ma tu sei fuori di testa. Però il punto è che uno come te, per fare provocazione, per fare induzione alla comprensione attraverso induzione alla comprensione, no, ti sbagli, cioè, faccio uno show, uno show alla radio, non voglio, certi. Non è una cosa, non è una lezione universitaria. Voglio induzione alla comprensione, fai della comunicazione con linguaggio allora? Forte che può produrre, sì. Ok, può produrre. Io forse non è chiaro, Veronese, voglio continuare a mangiare il coniglio, punto e basta, non me ne frega cazzo di queste pippe mentali. Capisco, sono stato un carnivoro per 59 anni. Mangiavo 6 etti di carne al giorno. Vuoi che non capisca io chi mangia la carne? Ma nessuno più di me lo può capire. Quello che non accetto è che tu, che hai una responsabilità, un ruolo nella società importante per il ruolo che svolgi, fungi da catalizzatore di idee che sono tremende, tremende dal punto di vista ambientale, ecologico, economico e finanziario. Bruciare vivo una persona è una stupidaggine. E allora? Sono stupidaggine quei conigli sulla testa, capisci? Beh, ci sta adesso, bruciare vivo. Mi sembra se vuoi acclarare che bruciare vivo uno perché ha fatto una cosa così è una cazzata, te lo posso anche scrivere, ma no, per male, Dio bravo. Lo penso davvero quando vedo una e cosa e se lo pensi genere, davvero se lo ma che se lo pensi davvero bruceresti veramente una persona però ma lo penso davvero ancora in chiave provocatoria, hai una responsabilità, ma che vuol dire ragazzi, ma che vuol dire bruciare vivo? L'opinione pubblica. Ma lo sai che il bilancio italiano è piagato da tutte le malattie che provengono dal carnivorismo. Diciamo, il bilancio dello Stato è distrutto in parte. 100 milioni di euro, di cui più della metà vanno per malattie cardiocircolatorie. Dal carnivorismo. Vanno per cancri, vanno per Parkinson, vanno per Alzheimer. E che c'entra il carnivorismo? Ma che c'entra la carne? Che c'entra la carne? Ti suggerisco di guardarti alcune ricerche mediche adeguate, nuove, vabbè. E dovresti guardarti, e allora ti renderti conto di quello che hai fatto. Va bene, Luciano, bruciare vivo io non l'ho mai scritto, non l'ho mai detto, amico mio, perché mi metterebbero in galera. La groppa. La groppa un coniglio, se tu avessi provato metà del dolore che ha provato quel coniglio a quest'ora, staresti fresco, caro. Ciao. Addio. Mamma mia come combatteva questo qua. Ma non si può mettere insieme bruciare vivo una persona e una campagna, una controcampagna sul coniglio. No. Dai. Però ho usato lo stesso metro provocatorio tuo, no? Quindi dovrebbe piacere. Che io dico ti brucio vivo. No, ma lui ti ha spiegato che usa questo linguaggio iperbolico apposta. Vabbè. No? Massimiliano da Pordenone, cioè se io dico a qualcuno ti brucierei vivo mi portano in galera domani mattina, lo sai. Massimiliano da Pordenone mi denuncia tutto il mondo, tutto l'universo. Terzo mondo, dai, Massimiliano. Eccomi. Cosa devo denunciare? Non devo denunciare nessuno. No, per carità, nessuno. Allora, ti chiamavo perché con permesso del tu, per intervenire sempre sulla discussione delle zoccole che parlavate prima. No, non c'era nessuna discussione, ci ha chiamato un signore da Lugano dicendo che, tra l'altro mi ha mandato una foto, effettivamente la signora Giulie, lo riconosco, una foto che la voglio tranquillizzare, non farò circolare mai, con una delle prostitute più conosciute di un bordello famosissimo di Zurigo, il Globe, questa qua si chiama Giulie, è tedesca, perché credo che sia anche l'unica tedesca lì, perché non esistono molte prostitute tedesche, sono tutte quante slave, di solito in tutti i posti, diciamo in Europa, nei principali posti europei di prostituzione. Non farò circolare questa foto, sì, effettivamente è lei, è la signora Giulie, la riconosco, alta 1,70 m, con i tacchi 1,80 m, vabbè, insomma, molto bella, tedesca. Lui ha una faccia un po' da attore porno molto giovane, com'è che si chiama quello là, il cosiddetto erede di Siffredi, quel pazzo Max Felicitas, impreparato, sì, lo so. Allora, Massimiliano, Felicitas, mi dico Felicitas, nome di battaglia, beh, certo. Massimiliano, vai, dimmi che c'è. No, io volevo solo dire che nel 2005 ho servito una ragazza che lavorava in un bordello, cioè gli ho fatto gli arredamenti di casa, ok? Sì. E dopo avermi pagato, niente pagamento in natura, quindi dopo avermi pagato ci siamo fidanzati, siamo stati insieme un anno. Un anno. Questa è una notizia poi, che merita io, la prima di domani sul mio, sole, eh? Giustamente ho detto boom. Cioè ti sei fidanzato con una prostituta pure tu? Sì. Io l'ho accettato per un anno. Sai che Parenzo, però... può anche non essere una cosa sbagliata, lo sai? Perché no, elimini dico tutta... di no. Ma sai perché? Con permesso del tuo, con permesso sì, del tuo. Ma devi darmi del tuo. Però onestamente siamo stati benissimo. Sì. Poi io non ho più accettato perché qui nel Friuli abbiamo un po' di mentalità bigotta. Beh, okay. Bigotta, io conosco abbastanza bene il Friuli per mille motivi, come sai, come sapete, forse no. Ecco, quindi dico, lì non ho un po' accettato più forse anche la gelosia, però sono andato a fargli da padrino al suo figlio, che ha avuto 7 anni fa. E tuttora ci sentiamo che ha smesso di lavorare, ha preso 10 appartamenti, ok, sì, a Trieste, e ha detto basta, ho fatto quello che dovevo fare, ho 36 anni, mi sono divertita, ho dovuto crearmi una storia mia per avere la mia pensione, eccetera, eccetera, basta. Mm. E ti dico, io lo rispetto tantissimo perché è una persona intelligentissima. Vabbè, ma infatti questo qua mi sembra, no, cioè... Ha fatto delle manovre che, credimi, io da piccolo imprenditore che sono, mai avrei pensato di farle. Lei l'ha fatto per 10 anni e ha detto basta. Ma tu come facevi a sopportare il fidanzamento con una prostituta quando andava a scopare con gli altri? Cioè non te ne fregava niente? Lo sai che può essere un'idea, Parenzo? No, per non eliminare... è vero che non te ne frega niente. Se tieni eliminare... una persona ti frega sempre. Però per eliminare questa cosa qui della gelosia e tutto, cioè, in fin dei conti è quasi meglio che una persona faccia la zoccola, no? Che la dia via per soldi. Cioè, che no? Vero? Sì, cioè... sì, perché io dopo ho avuto una ragazza, sempre una gran gnocca per l'amor di Dio, però dopo ho scoperto che mi tradiva con un amico e mi sono leggermente alterato. Cioè, ma leggermente, che hai fatto? No, niente di che, cioè è solo che ho fatto il paragone anch'io, cioè stavo meglio prima con una zoccola che sapeva che lo faceva che una che baciava i banchi di chiesa e mi diceva di non tirare 4 madonne quando ero arrabbiato, ok, e stavo meglio prima. Stavo meglio prima. Adesso ti dico la verità, mi sono sposato, ho avuto un figlio con una persona splendida. Sì. Okay. Ma gli hai raccontato la tua moglie attuale che stavi con una prostituta? La mia moglie attuale è venuta con me ma a casa di questa ragazza. Sì. Ok, perché siamo amici. E allora? Gliel'ho presentata. Oh, tranquilla e serena. Abbiamo fatto una cena che povera, bravissima mia moglie. Mi ha fatto una cena tra amici. Eravamo 15 zoccole. Io per prima, perché io ma faccio commerciante. 15 quindi zoccole? Sono sì, sì, 15 zoccole, perché io per prima come commerciante sono zoccola. Ok, quindi vabbè, in quel senso. C'ero io, c'erano 14 donne e mia moglie. Okay? 14 donne? 14 donne, ma perché prostitute? Come? Prostitute, no? Sì. Ma perché? Perché hai fatto una cena con 14 prostitute? Scusa. Sì, perché alcune di loro dovevano fare degli arredamenti a casa e poi. Cioè, Parenzo, tu faresti per casa tua a Prati, belliti. Io qualche volta devo venire a casa tua a cena a Prati quando inviti qualche gente importante, sì, di quelle così, no, e portare delle prostitute, bellissime. Ma guarda che magari. Mi porto dietro 2 prostitute e ti fanno basta vergogna. Basta chiedere al mio amico Dominique Strauss-Kahn. Non è che bisogna andare a Voglio lontano. Venire a casa tua con la signora Efe Ball. La signora Efe Ball a casa tua. Mentre va bene, c'è... ma. Non... Mentre c'è qualche professore, qualcuno di quelli che conosci sì, tu. Sì, certo, bellissimo. Cioè, lei è turca, conosce bene la crisi turca. Massimo da Fermo, un attimo, Massimo, dai. Io di tutto, Massimo. Dai, che già è vacanza oggi. Massimo! Sarebbe... Eccomi. Dimmi. Dai, veloce, vai. Grugiani, è 2 mesi che aspetto e mi è venuta una fretta tale che faccio interesse faccio interesse privato in atti radiofonici a questo punto. Cioè? In materia di vaccinismo. Cioè? Faccio l'annuncio tra l'erotico e il matrimoniale. Cioè? Cerco solo una donna che abbia in dote il crampo vaginale. Vabbè Massimo, adesso approfondiamo domani. Intanto molte persone mi hanno scritto. I vegani ci possono spiegare come evitano in estate gli insetti quando vanno in macchina, non solo in estate? Cioè i moscerini, gli insetti quando vanno in macchina, anche loro sono degli assassini allora? Ciao, domani. Zanzare, uak bar, zanzare, uak bar. Allora andate al bar. Allora andate al bar. Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7:30. Lo so, lei ha ragione, lo dica a voce alta. Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere. Siamo ad alti livelli qua, Radio 24.